Fabrizio Intonti. Venivo qui, mi è tornato in mente un film, anzi mi è tornato in mente il titolo di un film, perché è un film che non ho visto ed è uno dei classici film che pochi hanno visto e tutti sanno citare. È un film che si intitola Fermate il mondo, voglio scendere, un film di Lando Buzzanca, molto vecchio, che è, il cui titolo è diventato quasi un modo di dire, no? Quasi un proverbio: fermate il mondo, voglio scendere. Solo che fermare il mondo è impossibile e scendere è molto difficile. Allora uno abbassa le sue pretese e dice: rallentate il mondo, magari andiamo un po' più piano. Però anche quello è molto difficile, sempre più improbabile. Allora uno dice: vabbè, magari il mondo continua ad andare, rallento io. Ecco, e quello è facile o difficile? Oggi parliamo di questo. Se avete provato a rallentare, a fermarvi un po' con il lavoro, con la carriera, per riprendervi un po' di spazio, un po' di tempo per voi, 800 24 00 24. Minuti dopo le 4 del pomeriggio, io sono Achille Corea e questo è Giro di Vita, il programma che parla di chi ha provato, sta provando oppure ce l'ha fatta a cambiare vita e a inventarsi un nuovo inizio. Oggi è venerdì, noi vorremmo raccontare delle storie un po' diverse, non dei giri di vita di chi magari ha cambiato paese o continente, oppure di chi si è inventato un lavoro completamente diverso, magari opposto rispetto a quello che faceva, ma raccontare dei giri di vita di persone che hanno cercato di migliorare un po' la loro vita, magari con dei piccoli passi, anche se non è detto che questi piccoli passi poi siano anche facili. Cominciamo a parlarne con Marco da Piacenza. Benvenuto. Grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, Marco da Piacenza, però Marco una volta era Marco da Milano, vero? Questo è già un cambiamento. Sì, ero Marco da Milano, Marco da Roma, Marco da diversi posti. Ecco, cosa facevi tu fino a qualche anno fa? Dunque, fino a qualche anno fa io ero un manager, un dirigente aziendale per molti anni, dopo i primi 6-7 anni sono diventato dirigente, sono stato manager in grosse aziende italiane e multinazionali, l'ho fatto per una ventina d'anni complessivamente. Quanti anni hai adesso? Adesso sono 40. E quando hai deciso di rallentare, se è questa la cosa di cui parliamo? Sì, 3 anni fa. Un po' meno di 3 anni fa, quando ho deciso di uscire da un'azienda dove, una grossa azienda molto conosciuta dove stavo lavorando in quel periodo e dove avevo lavorato per alcuni anni, che a seguito di una serie di cambiamenti anche interni, insomma, mi ha stimolato ulteriormente a fare una cosa che avevo in testa da un po' di tempo. Il giorno o la cosa che ti ha fatto decidere di cambiare, qual è stata? Non c'è stato un giorno in particolare, io ho maturato questa cosa nel tempo, diciamo che con il giro di boia dei 40 anni c'è stata un'accelerazione in questo senso, perché la voglia di dedicare 12 ore al giorno al lavoro è cominciata a diminuire, la famiglia è cominciata a diventare più importante a quel punto, e non solo la famiglia, anche tutta una serie di altre cose che letteralmente non ero in grado di fare. Senti, io penso che adesso la gente in ascolto stia cominciando a pensare: vabbè, ma questo che ha fatto? Tu hai deciso di rallentare, di frenare, di lavorare di meno, e materialmente che cosa hai fatto? Materialmente ho iniziato a, quindi ho abbandonato un rapporto, diciamo, fisso, poi di posto fisso ormai non si può più parlare, perché comunque anche il posto fisso è precario, soprattutto a certi livelli di responsabilità e di retribuzione. C'è sempre, può sempre arrivare il giorno in cui qualcuno ti dice che non vai più bene, quindi comunque esci, no? Ho deciso di fare le cose in proprio come consulente, e ho aggiunto a questo più recentemente la cosa che in realtà forse mi piaceva di più e che da tanto tempo volevo fare, cioè formazione, docenza, quindi riportare un po' in un ambito anche accademico in certi la casi la tua vita. Scusami, però io so che per esperienze sia mie di gente che vedo, che a volte mettersi in proprio vuol dire lavorare di più. Tu sei riuscito a passare dall'apporto dipendente a quello che lavora per conto suo, a lavorare di meno, ad avere più tempo per te, a che prezzo? Ah, dunque, il prezzo non è stato quello di lavorare di più, perché in questo sono stato molto aiutato da un periodo che non è sicuramente il migliore degli ultimi decenni, quindi il rischio di dover lavorare troppo in questi anni c'è stato fino a un certo punto. A cosa ho rinunciato? Ho rinunciato sicuramente ai soldi, come prima cosa, perché ce ne sono sicuramente molti meno rispetto a prima e soprattutto con meno garanzie. Insomma, diamo un'unità di misura un po', quanto hai perso, quanto hai, diciamo, in percentuale, quanto si è abbassato il tuo introito? Si va, dipende dai periodi, ma mediamente un 30-40% tranquillamente. Ah, 30-40% solo per quanto riguarda la pura retribuzione, da quello che forse non tutti sanno, ma chi fa il dirigente lo sa, e che il dirigente oltre allo stipendio ha tutta una serie poi di altri vantaggi, l'auto aziendale, l'assicurazione sanitaria, i fondi pensione, tutte cose che naturalmente, cioè, la prima cosa che devi fare è andare in concessionaria e comprarti una macchina. Senti, io sento arrivare proprio l'obiezione, cioè questo però vuol dire che tu stavi il 30, 40, 50% sopra a livello di benessere. Beh sì. Ma sicuramente sì, ma infatti è un po' difficile, il manager sicuramente fa anche una vita dura, però è un po' difficile farsi compatire, a me è capitato anche di sentirmi dire più di una volta, e giustamente, beh, insomma, non è che voglio, in fondo sei a un livello di retribuzione di cosiddetti benefit che la maggior parte degli altri si sognano, per cui chiaramente ci sta giocando. Reazione dell'ambiente lavorativo, ex colleghi, amici? Diversa da seconda delle persone, ma ti accorgi che molti, cioè che gli amici che ti sei fatto sul lavoro in realtà sono pochi, gli altri erano colleghi o comunque persone che hai conosciuto per lavoro e che ti valutavano molto più per il biglietto da visita che avevi che per la persona. Reazione della famiglia, tu sei sposato? Sì, sono sposato, ho una figlia, reazione della famiglia positiva, assolutamente positiva, di grande supporto, di grande incoraggiamento. Tua moglie lavora? Sì, mia moglie lavora. Più di te adesso? In questo momento, in termini di ore al giorno, soprattutto di ore passate fuori a casa, sì. E se volesse rallentare lei? Ah, potrebbe farlo quando vuole, naturalmente questo comporterebbe qualche sacrificio in più. Almeno nel breve termine, però si può fare, insomma. Va bene, visto che ti trovi bene, che sicuramente è una storia che stuzzica, un paio di consigli da te per chi ci ascolta. La valigia e la zavorra. Allora, dimmi qual è la dote, la necessità, cosa bisogna portarsi dietro per fare un cambiamento come il tuo? Ma sicuramente un po' di coraggio e di curiosità e di entusiasmo, cioè di voglia o di fare cose che non si sono mai fatte o di rifare cose che si facevano e si sono dovute abbandonare, quindi guardare al futuro con ottimismo, non sentirsi vecchi. Il grande rischio è che un manager a 45 anni si senta vecchio, e spesso lo è per il mercato, non... E quindi insomma recuperare anche questa forma di giovinezza mentale. E cosa bisogna buttare? Cosa bisogna buttare? La paura di perdere lo status, la paura di perdere appunto quel famoso biglietto da visita che per molte persone si identificava. Al di là poi di tutto ciò che c'è di materiale anche dietro, ma soprattutto quello che è più invece psicologico, di autostima, ecco. Evitare di dare un colpo all'autostima solo perché non si ha più il biglietto da visita con una scritta importante. Grazie Marco per essere stato con noi. 800 24 0024 per parlare anche con i nostri ascoltatori. E se lo facessi io? Allora, per fare una cosa del genere, per capire come si fa una cosa del genere, bisogna trovare un esperto. Io fino a qualche tempo fa non avrei saputo trovare un esperto di una cosa del genere che molti chiamano rallentare, molti chiamano downshifting. Io, se non ho capito male, chiamo rinunciare a qualcosa che è molto considerato in cambio di tempo, in cambio di libertà, non so, decidiamolo. Non avrei saputo trovarlo finché non mi sono trovato davanti un libro che si chiama Adesso Basta, che è un libro di un certo successo, scritto da Simone Perotti. Benvenuto. Salve a tutti. Allora, Simone Perotti, un libro di un certo successo perché parla proprio di questo, della storia di una persona che ha deciso di rinunciare a una posizione lavorativa importante e spiega come l'ha fatta e come si può fare. Sì, è un libro, non è un manuale, non è un libro in cui si spiegano i passi da compiere, è un libro, io credo, politico, un libro di critica a questo sistema, un libro di rivolta, non teorizzata, ma fatta e teorizzata dopo averla fatta. Forse questo è uno dei segreti del successo del libro. Allora, però lei aveva dei ruoli decisamente, visto che prima Marco ci parlava del biglietto da visita. Il biglietto da visita di Simone Perotti pesava fino a qualche tempo fa. Ma non più del suo, credo. Ero un dirigente d'azienda anch'io, se la stampa è un po' favoleggiato sulla mia carriera. Io ho avuto una carriera positiva, insomma, però ho iniziato da disoccupato, poi da impiegato, poi da quadro, poi da dirigente, insomma, quindi niente di straordinario. Sentendo la storia di Marco, si è ritrovato? In parte sì, perché diciamo... Il cambiamento c'è nella storia di Marco come c'è stato nel mio. In parte no, perché non ho sentito tracce, diciamo, nel suo ragionamento, il che è assolutamente legittimo, ma è diverso dal mio, di critica al sistema, di rivolta al sistema, di riduzione del consumo, di impostazione diversa della propria vita dal punto di vista esistenziale e psicologico. Mi sembra che Marco abbia soprattutto cambiato lavoro, ha scelto un lavoro meno impegnativo, ma sempre all'interno di quello che io chiamerei il sistema basato sulla produzione, sul consumo e sullo Simone spreco. A questo proposito le facciamo sentire un pezzettino di un film che è stato fondamentale per tutta una generazione, lo commentiamo insieme. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. 14 anni fa, questo era Trainspotting, il monologo finale, mi scuso con chi non ha visto il film, però finisce così, è questo il senso di dire o scelgo o rifiuto un sistema di questo tipo? Beh sì, quello che non produce benessere va rifiutato con coraggio, con convinzione, facendo un programma, però insomma quello che non produce benessere, lo ripeto perché è importante, va rifiutato, altrimenti si scambia con benessere quello che benessere non è, è quello che la pubblicità dice che sia benessere, è quello che, diciamo così, la vulgata, tutti quanti pensano essere benessere, quel famoso biglietto da visita, ma spesso e volentieri non è così, coincide con l'ansia, la mancanza di tempo per le persone. Un sistema basato sul consumo e basta, fine a se stesso, poi però si arriva a una certa età, si tirano le cuoia ed è tardi. Ecco, ci sono delle cose molto interessanti nel libro Adesso Basta, però io, mentre ovviamente noi aspettiamo anche commenti e interventi all'800 24 0024 o sulla nostra pagina su Facebook che si chiama Giro di Vita, le dico alcune diciamo notazioni ricorrenti relativamente a queste cose. Bisogna poterselo permettere, è roba da arrivati stanchi e annoiati. Quante volte gliel'hanno detto? Ma diciamo il 5% dei commenti è stato questo, che non è una cosa insignificante perché ho ricevuto oltre 60.000 email, quindi sono parecchie, però io non sono molto d'accordo con questo, è un po' la vecchia tiritera, la vecchia scusa, no? Il cercare la differenza dell'altro che mette in pace se stessi, se lui ha potuto è perché, ma io no e quindi non posso, quindi non devo farmi il mazzo, come si dice, per cercare di realizzare questo. In realtà non è così, serve coraggio, abbassamento del proprio stile di vita, vivere di poco, essere in equilibrio con se stessi, questo è un lavoro lungo, io ci ho messo 12 anni, ma è stato un lavoro psicologico e senza questo non si va da nessuna parte, si possono avere anche tutti i soldi che si vuole, ma dopo un anno si torna indietro. L'ex dirigente Perotti cosa fa adesso di lavoro? Adesso scrivo, che era quello che io volevo fare, scrivo romanzi, il 9 settembre uscirà il romanzo a cui sto lavorando, e per campare, perché poi i soldi dei libri arrivano molto tardi e non ci si può basare sopra il proprio sostentamento, faccio lo skipper, lavo barche, in questo momento sono in una barca che sto lavando per 90 euro, 90 euro se non li sprechi sono tanti, io compro pochissime cose perché non è mai collegato a qualche oggetto il mio benessere, ma a cose che non si comprano e quindi non c'è bisogno di lavorare così tanto per avere i soldi per comprarle. Lei ha famiglia, ha una serie di persone che dipendono da lei, tra virgolette, o anche senza virgolette? No, ho una compagna, ma non ho figli. So che chi ha figli naturalmente fa più fatica a immaginare un cambiamento per motivi organizzativi e logistici, però mi hanno scritto migliaia di lettere persone con famiglia che l'hanno fatto e che sono molto contenti, ovviamente ognuno trovando il suo di schema personale, e così come le coppie senza figli sono le più avvantaggiate perché fanno economie di scala, si sorreggono nella scelta, nel sogno. I single stanno in mezzo, quelli che vivono da soli come me, anche se fidanzati, ovviamente non fanno economie di scala ma non hanno neanche responsabilità verso terzi. Lei è diventato un punto di riferimento per una serie di persone, le scrivono e le dicono ho fatto anch'io come c'è scritto nel libro? Sì, ormai sono 8-9 mesi, sono migliaia le persone che ogni giorno vengono sul mio sito simoneperotti.com, c'è una vera community, il libro ha avuto il pregio di essere il primo e di aver fatto emergere una situazione che non è stata affatto inventata da me ma era già presente nella società. Questa società è fallita nei suoi intenti se le persone che lavorano, che quindi non hanno perso il lavoro e dovrebbero godere al massimo dei risultati del sistema, vogliono cambiare, vogliono abbandonare quello che hanno per cambiare vita. Capirei se chi non ha avuto accesso ai benefici del sistema volesse cambiare le cose, ma chi ne ha avuto il massimo probabilmente dovrebbe essere contento. Se non lo è, vuol dire che il sistema non produce benessere. Forse è presto, ma c'è qualcuno che invece le ha scritto e le ha detto mannaggia a te, ho seguito il libro e mi sono rovinato? Spero che non accada mai, perché è una bella responsabilità, ma un libro non ha mai queste responsabilità e neanche chi lo scrive. Sono idee, sono progetti, è la testimonianza della mia vita, spero soprattutto di non dover dire io che torno indietro, perché qui è una battaglia quotidiana, naturalmente il sistema non è facile da battere, diciamo, però per il momento sono solo persone che mi dicono ci sto provando anch'io e sono tantissime. Va bene, grazie Simone Perotti, il libro ricordiamo è Adesso Basta, adesso invece spazio a chi ci telefona 800 24 00 24. Allora, sentiamo un po' di esperienze, di commenti. Giorgio, pronto? Pronto, buongiorno. Qui mi hanno detto faceva circa 50 ore di lavoro a settimana. Sì, alla settimana, sì. Che cosa faceva? Io faccio tuttora il fisioterapista. E poi? E poi 2 anni fa è uscita, io giravo in moto perché bisognava ottimizzare, bisognava fare il mutuo, la casa, bisognava correre, eccetera, eccetera, è uscita una signora da una precedente, uno stop, e mi ha fatto volare dentro un campo con la moto. E quindi è stata una frenata forzata però di questo cambiamento di vita? Forzata, però io ero arrivato veramente al limite delle mie risorse in quel momento lì. Non dico che è stato un favore che mi ha fatto, però ho avuto uno stop obbligatorio con fratture, cose, insomma, di 3 mesi. In sintesi, adesso com'è cambiata la vita? La vita è cambiata in maniera sostanziale. Io era anni che volevo aprire uno studio perché ero più stanco di andare in giro, per cui ho raccolto le forze, soldi no perché non ce n'erano più, e ho aperto uno studio che adesso si è avviato in maniera soddisfacente, non sono io che vado in giro, i tempi li decido io, per cui riesco anche a decidere quando smettere, quando prendere i miei figli che adesso sono in macchina con me. E non tutto il male viene per nuocere, usiamo questo luogo comune una volta ogni tanto. Direi proprio di sì. Grazie Giorgio, grazie anche agli altri che per motivi di tempo non riusciamo a sentire, e abbiamo le grandi domande che è venerdì. Le grandi domande della seconda vita. Allora, in chiusura di settimana, noi in questi giorni vi abbiamo chiesto di dirci da cosa scappereste, che cosa vi fa venire voglia di cambiare vita. Ci avete scritto a giro di vita @radio24.it o su Facebook. Diego ha scritto ad esempio, ne prendiamo alcune carine: scapperei dalla gente che ti suona il clacson se al semaforo non parti un secondo dopo il verde, poi ti supera, accosta e scende al bar. E altre cose magari un po' più. Maryam scrive che scapperebbe derivrebbe dalla mancanza di lavoro, dalla precarietà, dai contratti a progetto. Frustrazione del lavoro anche per Bea, e mi piaceva il messaggio di Aldo che dice: scapperei dall'apatia legalizzata, scapperei dall'omologazione, scapperei da una regione soleggiata ma troppo arida di contenuti, scapperei ma non sarebbe giusto, per questo decido di restare fin quando riuscirò a non farmi cambiare. Perché ci piace anche ogni tanto dare spazio a qualcuno che la pensa diversamente. E noi torniamo lunedì. Io ringrazio Fabrizio Intonti e ringrazio Valerio Rocchetti che si è occupato della parte tecnica, e avremo tutta una serie di giri di vita come sempre ogni giorno dalle 4 alle 4 e mezza. Ciao a tutti da Achille Corea, buon weekend. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.